questo che ho adesso non è col trasformatore, è l'altro che ho, perché io ho due stazioni, devi sapere, ne avevo tre addirittura, poi una l'ho eliminata, e ne ho due, una superiore una diciamo al piano di sopra, una specie di cassettone fatto apposta, l'avevo fatto fare apposta per il garage, poi il garage l'ho venduto e via, e basta così, adesso ne ho due, vanno bene, più che bene, ne ho due in casa, uno in casa, uno per la macchina, un portatile, e basta tutto lì, poi c'è il ricevitore, e il PD, insomma, sono attrezzato. Meglio che sono stato malato. L'EPD non ne avete mai usato a Polotone? Quali? L'EPD. No, lasciamo qui, già la storia è un po' lunga, che tanto. L'EPD? Tre cose, l'EPD non l'avete mai trattato, però. Ho sentito curioso. Io l'EPD ho... C'avevo il portatile, prima si usava, era una frequenza radioamatoriale. Praticamente... Poi l'hanno passata a tutti, l'hanno lasciata libera come frequenza e niente, abbiamo una frequenza secondaria, però che trasmette in VHF, in VHF sì, UHF, in UHF, poi c'è anche PMR, io ho un apparecchio che fa tutti e due, sia PMR che DPD. Ma io userò tantissimo anche diciamo, nei posti dove ci sono flussi di macchine, tipo grandi supermercati, tutte queste cose qua li usano un bel. Sono comodi, tipo PMR. Esatto, però un'altra frequenza, l'LPD è migliore, batte di più. Pensa che io col portatile da casa arrivavo a Platamona a fondo scala. Però chi mi riceveva era in direttiva, Sono arrivato in continente dal portatile. Sto dicendo che sempre in direttiva però chi riceveva, sua soddisfazione, mi sentiva piccolino ma mi sentiva. Li usano molto, anche nei cantieri, li usa qualcuno anche a fare il servizio ambulanza. Non sa ne può essere nelle ambulanze? No. Noi ci avevamo 43 MHz. E a noi che Giampaolo. Copiato. È copiato doppio. Ciso. Pagato. Io sono al Ciso. Ho quello di Sassari, non quello di Polo Torres. Ah, ho capito. Cosa cambia? Via che sono due sedi separate. Separate. Il mio capogruppo è anche capo raggruppamento Sardegna. Praticamente comanda tutte le sedi della Sardegna. Buono. È il coordinatore, diciamo. Ma con Giampaolo siamo molto, andiamo molto d'accordo, cosa, siamo sempre molto legati. Adesso c'è anche questo discorso della lampana. Domani alla Tatarana, si rimane. Lampana. Io a me non è che mi... Io dico... Beh, io ammiro chi ha il coso di fare due cose. Chi ha, diciamo, la voglia di fare due cose insieme. Ma io dico, io ne faccio una, fatta bene, buonanotte. Io a Lampana non mi sono iscritto, però... Servizio ambulanza, protezione civile, antincendio, eccetera, eccetera. Ci sono già la bellezza della trentina d'anni. È una cosa buona, eh? È la cosa che parlavo, sì. come l'ultimo servizio che ho fatto io è la festa di Sant'Antonio, a lì punti, a lì. Vugaroni. Vugaroni Sant'Antonio. Si fa così, e la festa di Sant'Antonio, si fa così di Vugaroni, si dovevano si precari, si vengono di pari. Che bella voce che c'ha. Cosa ti stavo dicendo? Io c'avevo praticamente lo responsabile lì al fuoco di Sant'Antonio, cioè una bella responsabilità, mettere tutti gli uomini in modo che la gente non si avvicini troppo al fuoco, ma è fuoco a vero, non è fuoco da lunga, non mi sono più vicini al fuoco. Poi c'è la favata, no? Finito lì, siamo andati a servire le fave, ci sono pentoloni enormi con la favata, la gente che mangia un bel, fino a cosa, a Tambullani, qua che ce n'è. Una messa, via, questa è una festa che finisce. Io quasi con la verità, ne ho mangiato un piatto, e mi ha burro nauseato. E ho mangiato solo fave, lì. Fave e cavoli, il lardo non ne ho manco toccato, cotenna ne manco, pelagnone ne manco. Ho mangiato solo esclusivamente la verdura. Piazzimi. Quando la fanno? La domenica scorsa. No, due domeniche fa, si sta sbagliando, due domeniche fa. Quindi ce l'ho fatta, il mese di gennaio? Cappa. Sì, sì, l'abbiamo già fatta. Il 16 era là. E Tottiani c'era Benito Ugo, insomma facevano anche spettacolo a livello... a livello di cantanti, canzoni sassarese. La roba non mi piace a me. No? Ma che? Sono venuto a vedere il festival della canzone sassarese d'estate a Balai. Sei andato tu a vedere? E allora, io ero il giorno prima, noi. Il giorno prima noi stavamo suonando là. E' la strada che il venerdì abbiamo fatto il resto della notte lì e dove l'indomani c'era Giovanni Giordo. C'era Giovanni Giordo, c'era... come si chiama? Teofolo Crusedu, c'era un gruppo di Porto Torres che faceva tre canzoni sassaresi. Di Jump. Esatto. Mi credo che dovrebbe fare? Adesso bisogna tentare, che sono da per me. Ho fatto... Adesso mi sta facendo la selezione a me adesso, il fratello. Ma tra l'altro che musica fai? A me mi piace la musica già negli anni 70, faccio io anche folk. Anni 70 è qualche pezzo magari adesso di questi cantanti noi, ma sempre se mi coinvolge, ecco. Se mi piace, sono prevalentemente anni 70. Più precisamente io sono un grande amante dei Nomadi, il gruppo dei Nomadi. Ma anche musica alla discoteca alle 70. Discoteca succede a farla che magari tutta una serata che Gianni, che magari è iniziato con, per esempio, a Capodanno ho fatto il veglione lì dalla campanetta e abbiamo fatto prima karaoke per farci vestire qui, dopo un poco ho fatto un po' di cantoniglio e dopodiché abbiamo finito con la discoteca, un po' di liscio, insomma, un po' di quello che la gente voleva. Ma mi sono piaciuti molto gli squali, che non avevo mai visto il Porto Torres. E ho riconosciuto bene gente, c'è Marcia, c'è Elio, poi c'è il dottore, insomma un po' quella giù conosciuti di Bassone. Appagato. Quindi dice che era un gruppo che da giovani suonava e poi ogni tanto si fanno la serata. Sempre. Ne avevo visti, allora, mi detto via Indipendenza, una volta l'ho suonato, e poi l'ho visti due o tre volte, ma mi sono piaciuti, sono abbastanza in gamba, fanno, coinvolgono molto il pubblico. Ma poi mi fanno la musica che piace a me, capito già? Io infatti ti sto dicendo. Ma tu dove sono, nei locali oppure anche all'aperto? No, per esempio, quello che abbiamo fatto lì una volta era all'aperto, sul palco, con i servizi. Era una manifestazione quella lì. No, nei locali, se capita, però scusa, il dipianto di questo, karaoke. Ma che stai sempre facendo? Sì, sì, sì, anche adesso. Fammelo sapere che così veniamo a vederti. E come si dice? Perché ora sai cosa mi piace? Se vado per dire in un locale mi piace per dire mangiarmi qualcosa e ascoltarmi la musica dal vivo. Quello mi piace, invece tanti locali, boh, sono musulci, non fai altro che mangiare, una volta che hai mangiato cosa fai? Non fai più nulla. Quello che faccio io proprio questo qui, vado proprio nel locale dove si mangia, una pizzeria, un agriturismo, e capito, fanno anche giro pizza, questa è abbastanza 11, si mangia bene, la verità. E lì faccio la musica, faccio karaoke, canto io, insomma, proprio come fare la gente, capito? Così funziona lì, proprio come serve a te. E dov'è quello lì? La Campanella, da Uras. Uras. Ma ora se ex carabinieri. Ora vedo un barriere, il Salvatore. Sì, mi sembra il tuo fratello o il cugino, comunque c'era anche lui. Anche che sta fuori, sono lì. Ma è dentro Campanella proprio? No, è molto prima. È praticamente è giusto quando c'è la rotatoria del Rosario. Ecco, va in direzione. Ho fatto un pochettino questa direzione. Fai questo tipo di strada, è lì dove c'è la cava, che ti ha detto attacci tutti la cava. Ecco, quella lì non la devi prendere. Quella lì è praticamente la prima traversa, non la devi prendere. Proprio lì, 300-400 metri. Adesso, preciso è, c'è un'altra traversa, una e dall'altra mi sembra via un mezzo, o via Alghero, se non mi ricordo. Poi ti ho capito. Sì, ma già glielo dico, io conosco bene la figlia del carabiniere, quindi l'ex carabiniere, quindi già è lì di Campanella, quindi già lo sai, capito? Siamo con ex colleghi. E comunque già ci faccio, ma il venerdì pure, venerdì notte. Poi di andarsi per capito. Io questo ti mandato un'altra cosa, problema. E poi dove stavamo dicendo di magari però sapendo le la ho sentito delle ordinazioni, no, si organizza, delle prenotazioni volevo dire, si organizza lì e alla, non preso a, e fa di questo burro di rada di vendere, solo direttamente solo il sabato. Ma bisogna prenotare? Generalmente conviene prenotare, perché è sempre pieno, o già, perché vengono da Cotter, da Sassari, da Giusto, Burro, che faranno un bel niente, capito? Converrebbe prenotare, ma se magari ci vediamo in questi giorni ti do altre cose, ti do il bigliettino con il numero tutto quanto, se da voglia ti lupo, vado a viaggio, viaggio in macchina, tutto contatto io, aspetta che guardo il giubbotto, già, scusa un secondo. Vabbè, se ce l'hai mi fa piacere, perché vorrei venire a vedere un po' come la situazione, là. Via, uno. Avrà lì un'inoga, se non vuol dire ti do più un numero, quando magari si capita che seguiremo ti do più un bigliettino da dirti, magari. Ah, già ci vediamo a produttore, non ti preoccupare, no, dai, non è qua. Ci vediamo giù a produttore, se già, ma lo fai a vedere, mi fa una cosa cortesia, perché A me piacciono questi tipi di locali qua, dove c'è musica io sto benissimo. Anche perché a me piace un bel cantare. La sento proprio la musica. No, guarda di questo, perché dopo ripeto, però che non è che tu proponi, tu, io in questo caso io faccio generalmente le cose che a me piace fare, cioè tanto un po' a te, ma anche della gente che così, per esempio che vengono collettive di persone che hanno 80 anni, 85 anni e magari le faccio sapere tanto dei loro tempi, così di ma tu per fare due canzoni dopo mi fatto già capire perché non c'è fatto niente. Già va bene, almeno stai tu a riposo e loro cantano, ma tutto è saper animare la serata, capito? Dare l'impulso. Ma che è bello di correre cosa ti direi? E no che non venne, strano, qui non ce n'è. E adesso mi sono acceso il ricevitore, ma non sento nulla ancora. Comunque, lo so se tu l'hai sentito, dice che l'IPD non si può più usare, lo sai. Ah, io sono voci che dicono che se l'hanno ripresa quella frequenza, non lo so, che l'hanno data alle forze armate, non so cosa, no? Avrebbero, ma se, come quando mai tu dai una frequenza e poi te la riprendi, ma un po' strano. Allora, prima l'hanno messa libera, perché questa qui era una frequenza che usavano prima i cosi, come si chiamano, gli amatori, però era una frequenza secondaria loro. Iscritto non c'è, non so se ci sia qualcosa, io l'ho sentito solo dire basta questo affare qua che non si poteva più usare, che era passato alle forze dell'ordine, non so se è roba di che lo stavano usando i militari proprio. Tanto non ha giubilazzo, ce l'ho buttato lì senza usare, senza nulla, scarico. Un peccato perché era un bel apparecchio, anche che il mio pompava forte. No, a me la 27 piace di più di tutte le altre frequenze, sinceramente. Mi piace un bel, perché mi dà molte soddisfazioni. Io ne ho provato. Io mi ricordo quando voi a Porto Torres comunicavate in altre maniere. E io una volta sono stato a pescare. E ho chiamato Giampaolo e cose. Ma le tesi subito mi hanno fatto un casino, oh mamma mia. Ho mollato tutto, boh. Ma voi non state più parlando. Ma fiago di Daura, via. Pericoloso. È meglio qua, sei tranquillo, paghi la concessione, sei tranquillo. Ahia, anche quello sì, soprattutto, beh, vedevo che uno non va di Marco D'Amaro, senza te però, sai com'è. Io lo so, ma la legge parla chiaro, no? Dice che per avere quegli apparecchi lì bisogna sostenere un esame, e se uno non ce l'ha non lo può né tenere né usare, solo sono per ascolto, può avere ricevuto se si riesce da più vuoi. Boh, basta. Non puoi parlarci. Esatto. Quello è vero. Ma solo che quando tu vai, un ricetrasmettitore ti voglia sempre va a bidà. Senti un amico, vai a salutarlo, sempre ti voglia, io lo so perché anche il 27 te lo fa. Magari non vuoi entrare, poi tieni un amico che entra un mattino. Beh, con che si finisce, vieni tu ai. Sì, ho quasi finito di andare. Sì, vabbè, e sapete come stai pure in grugnola a Mirucci. Vai fuori. Anche questo è fatto, domani continuiamo. Continuiamo il resto domani. Stai stressando con questa stazione adesso. Io non è ora di fare che si cose, non ha sabili. Ma infatti, infatti. Tu sei peggio di me quando si fissa con una cosa, si canta come, come ti dico, nulla, non si molla. No, perché dopo mi dà fastidio non chiudere la giornata come la voglio chiudere. E vabbè, tanto il tempo ce l'hai, dai, adesso. Sì, sì, quello è vero. Topolino, piccolino, però vedi, piano piano, e questo così va già, radio, belle, tutto quello che vuoi. L'antenna è tutto. Complotera. Complotera. Cosa ti gusta comprarti l'antenna? Se vuoi una mano vai in via e dati una mano a sta zia. Faccio figurati già, grazie comunque. Figurati, faccio fatto un palo e con la caretta, grazie sopra, no? Mettati la cintura, se vuoi non è manca stagliato, perché anche è stato sicuro perché c'è anche il prezzo, insomma. Dovrebbe succedere proprio la disgrazia se faccio 20 kg, ecco. Salgo lì, mi aggancio, slitto, ho la cintola con le attrezzi, tratto e tratto l'altra, mi devo succedere e faccio sempre così. Non ho studiato bene, fatto bene proprio un travaglio, ecco. Io vabbè, ho un terrazzo che ci cammino, ci passeggio sopra. Passeggio sopra. Diciamo enorme, là. No, tutto il tetto è tutta terrazza, tempi ci sono il coso dell'ascensore, dove io ho attaccato l'antenna, ma ti viene tutto a regola d'arte, là. Perché quando l'avevamo installata questa antenna aveva la rovetta sentita allora, e l'avevamo attaccata a Roma stessa. Riprendi. Ma che c'è, qualcuno è entrato? No, era ricevuto. E mi pare che senza poca gente a casa. Ma prima c'era il boom, il primo periodo che tu non sai come si è ripristinato tutto a Sara. Ma di che cosa? Le 27? E allora? No, come? Ho trovato io, Natalino, quelli vecchi. Se io devo una spolverata agli apparecchi e li prendiamo tutto. Sì, ma tanto dice, ci sono dei telefonini, c'è il computer, oh, non hai bisogno di essere di benissimo. Beh, per ciò che abbiamo cominciato, poi vabbè, c'è Maria e coso e come si chiama, Mario Mocerano, ogni domenica si sentiva. Ma erano gli unici che si sentivano, poi tutti gli altri erano morti. E poi si è popolato tutta la frequenza, poi come c'è Talghero. Talghero ancora qualcuno c'è. Sì, non me la metto più, va bene. Non mi ricordo più già chi c'erano tre persone che c'erano prima. Ce n'erano Talghero, lui. Beh. Ce n'erano un bel. E adesso, vabbè, in Alghero c'è Piangelo, che è un modulo d'Alghero, c'è Cona. Poi un paio ce ne sono, ma sono tanti, ma qualcuno c'è ancora. Ce n'erano me lo stesso, come produttore, ma lo sai cos'è, che anche a produttore se prima c'erano sulle barche, te ne ricordi le Mantova sui pescherici? A Mantova? No, qualcuno no, mi sembra di no, di non averne mai visto io quella roba lì. E io sì però, le Mantova su quei pescherici, il palo dei pescherici. Adesso usano tutti i VHF, ma prima anche per schede ci modulavano con la 27. Io se volevo andare dove c'era per schede ci andavo sul canale 1 e c'erano loro. Forse mi ricordo infatti. Te lo ricordi di Agavina, che chiamava, mica che pronto lo pranzo, a che era di Renzini. E mi sono attacchi di Giugannau e sono arrivati. Te lo ricordi, sì, satellite. Poi c'era l'imbarcazione di Tore Amoroso. Quando mi si arrivano i gran culi, Tore, quindi sì, e aspetta un attimino che alle macchine Tore, mi dicevano, si arriva lassù, dimmi già, non è gran culi, è un poco giallaggio a bordo, ma se ti ridate dei marinai, poi lo domandava e gli apriremo. Bene, a Risetti, gli attacchiamo a Risetti in Chivi, nella banchina. Faravo, mi dava le gran culi la domenica, andavo a piccare roba di orato, mi diavo questi gran culi freschi e freschi. Ma che? Ma te li regalavano gli indiani? A me me li regalava. Qualche volta li ho anche comprati, ma da lui non li compravo mai, me li regalava. Me li regalava sempre. Anche quelli dentro la spugna, proprio belli grossi, andavamo a Cattaneo, di lì, alla prima curva li mettevo sempre, con il regalo in terra, con il cucciarino in tira e via. Quando passavo il cucciarino verrai. A sentirmi avvirendo? A voglia. Io mettevo le canne in terra, non prendevo un cucchiaino di quelli per il caffè, li piegavo il manico, mettevo in tira la lenza. Quando baciavo il cucchiaino era edda. Ma sarà anche il barattolo delle mattine vuote, della sera? Poi casa, anche quello. Ma io ci mettevo il cucchiaino, me l'aveva segnato un anziano di Porto Torres. Metto, mi fai così, e dopo veniva pure a Gavannio. Quando ti dà un cucchiaino, mi dico se ti lo fai andare in neve, secondo tanto è grossa, si bacia al razzo. Ma a me, un'ombrina me l'ha fatto cadere davvero in acqua, ed era bella massiccia. Ok. Scusate un attimino che ho appena... appena scaldato qua. Ok, va bene. Ok, va bene. Di quanti tempi stai parlando già? Parlo quando il Molo Cattani era ancora con quelle casupole che io facevo il notturno. E me ne entravo in quelle casupole dove andavano anche le guardie giurate, ce le presenti. Quella specie di cosa scavato nel muro, mettevo i filaccioni a parte in fuori, a parte dentro mettevo le canne. Ogni tanto lo barattolo delle filaccioni ci senti in mia, roba di grongi, biliavo in chivi, ui. Ehi, la come c'è il babbo? Oh, in chivi non si mette tanto, si può andare di vera. Ma anche lì, non so se mi hai pescato lì, ma una volta ho preso un polpo di 5 kg e quando l'ho tirato su non mi ha detto, qui c'è un paracadute, se bove la mano, ogni abito di tentacolo, ogni tentacolo ti faceva un'insalata di polpo. E così va, ha uso una bocciola, allora, so che quei tempi sono passati. Sbaglio i picchi negativi qua. Già, non riesci a notare se sono picchi positivi o negativi? Sì, sono negativi. Oh cazzo. scusate un attimo, per risposta ho detto. Ho tutto dimostrabile, c'ho le foto, in macchina di qualcuno che ho preso, ho le foto, quelle non le ho mai buttate via. Ma una volta mi ricordo che avevo preso una ratta un bel grosso, però ero lì, non avevo cattani, ero lì al molo dove c'era la catracca della Tirrenia prima. Ecco, il gran culo avevo preso un'orata che sarà stata, era bella massiccia, e l'ho messa in macchina, perché sai, la gente sta sempre, fammela vedere, toccando, facendo, allora l'ha preso e ce l'ho messa dentro la macchina. Arrivano questi due, con portacalla, attrezzatura, isu, guidare. Ha fatto e noi sappiamo pescare, qua, là, pumba. E se tu non hai pescato nulla, qualche cosa. Allora, ma no, noi siamo esperti, abbiamo tutta la attrezzatura, facciamo scuola di lancio. Beh, io comincio a prendere un'orata sugli 800 grammi, dopo quella grossa che avevo preso. Poi ho preso un saraco, poi ho preso quella. E a te già sono bellini, ma quelli lì per noi sono fesserie, e tanto non pigliavano nulla. A un certo punto mi ha rotto le balle e la gente, scoprite qui un attimino, ho preso il cofano, ma che a questa vi piace, e questa dove l'hai presa? Qua. Ah, oh, bella, bella, complimenti, e pure io non sono né tiratore, né faccio lancio per professione, non c'è attrezzatura come ci ha detto, eppure i pesci li bisogna mattessi. Ah no, senti sta, tu mi dici di, certo, con la puta sotto il naso, sai, come te, tutti i figurti, quanti gli danno azienda, motocross, dato, tutte le dita particolari, frasco, moto, così, passa da bene l'azienda, piano piano, dove la guida, dato, mi passavo con la bicicletta. Ma così qui c'è il treppiede per mettere le canne, tutto quanto, attrezzature di tutti i tipi. Ha fatto rompere le scatole, quando io vedo gente così mi gira le scatole, allora per sbarzare le ho fatte vedere. Dopo anche quelle da 800 grammi non erano da buttare. Scusate un attimo. Gianni. Vedete? Sembra buono, sembra picchi positivi. No, come parli dopo? Come parli ce li ha negativi di nuovo? È allucinante. Allora aspetta un attimo. Vediamo un po'. Allora, vedi un pochettino adesso. Adesso vado a essere positivi, confermi? No, negativo, sempre così. Non ti voglio dire una cosa per un'altra, per farti contento, ti dico la verità. Sei sempre con picchi negativi. No, sono positivi già. Sono positivi. Se il fischio si può parli e torna indietro. Confermo, se il fischio positivi, puoi parlando, vai, prova a me. Ciao a tutti, ma se la fai. Ciao. Capo. Forse ho capito. Ma sono positivi già. Ho capito che cosa è qua. Forse ho capito di che cosa si tratta qua. Bravo, di salvato, no? Il piano l'ho salvato, mi sa che il piano non sta facendo per massa. Come sei pulitivo, non lo so. Vai già, riprovo, farò parlare. Oh, dammi, lo vedo la grande, se l'ago si muove un bel all'indietro. Ma è positivo, no? Prova con cosa, con Gianluca, il cavo sul PM per vedere un po' magari una cassa non fa per contratto, capite? E quindi io poi adesso vado a essere positivi. Prova a fare un passaggio. Ok, vedi un pochettino, vedi un po', prova. Sì, adesso sì. Senti, la cazzo vai. Sti cazzo di PL, cazzo non servono a niente. Con quelle macchinette non ci sono più, non esistono più. Prego. Cazzo. Ok, vediamo un po', ok. Non ci sono un po', grazie. Sì, grazie. E un salutone a tutti, Giuseppe da questa parte, dai. Ciao Giuseppe, ciao, buonasera. Ma che c'è più Luca, mi sembra? Non ci fa. Poi c'è stato anche un altro break, se non erro, avanti l'altro break. Buonasera a tutti, Antonio Combo da questa parte. Antonio, ho presentito anche a te, dai. Sono in compagnia di Gianluca, di Luca Maricomio, poi di Alessandro, da Porto Torres, insomma, di Tornado. Siamo una bella roticina stasera. Ragazzo, no, Giuseppe sta parlando con me sul 21. Buonasera Diego, buonasera a tutti. Ciao Gianluca, anche a te, ciao Giuseppe, salutone, avanti Gianluca, riprendi. Ciao Luca, ciao Giuseppe, e Combo, così è? Bombolino. Sì, dimmi tutto Luca. Aspetta. Mi sento di essere bene. Sì. Il corrotore si decolpializza, avanti Sandro, sempre la fa parlando. Sono accompagnato Gianluca Bumburi. No, negativo, no, non lo sento la verità, mi deve perdonare, ma non lo sento. E comunque le auguro una buona serata se sentiamo. Se lo sento io, ciao Bumburi. Sì, non ti sente. Vabbè, dai. No, perché ho visto che quando ho rilasciato a coso a... ci ho detto buon mulino, poi stavo dicendo Gianluca ha ripreso tu e me l'hai calpestato. Ma vabbè, va, avanti già. E rilasci tutto quanto a Tornado, avanti Tornado, l'esplosivo. Calma, insomma, io già oggi a voce mi sa che siamo un tantino peggio, mannaggia. Speriamo che riesca a scrollarmela di dosso stanotte questa benedetta, cioè questo benedetto impiccio, perché più che cosa è un impiccio, guarda, questo mal di gola. Ma c'è febbre? No, negativo. E la febbre mi evita, grazie a Dio. E questo colpo d'aria che ho preso e niente, questo mal di gola strano. E niente, comunque si sopravvive lo stesso. Ciao Gianluca, e approfitto visto che ormai è aperto per ricambiare i saluti. E ciao Luchetto anche a te. Carissimo, comunque mal di gola, come ci ho fatto una volta, la prima mal di gola, maledetto. Anche la febbre si fa sentire, per l'influenza. Però a me fa così, dai, la maggior parte delle volte fa così. E posso dire che dall'anno scorso a quest'anno non sono stato ricco, non ho avuto fortuna di scamparmela. Sempre mal di gola, febbre, non superiore ai 38. Vabbè, va, poco più di 38, ma senza andare oltre. Poi mal di denti, raffreddore, mal di testa forte, dolore alle gambe, cos'è che non ho passato? Di tutto e di più. E quindi già va bene lui, già va bene, cavolo. Vabbè, purtroppo succede in vita, è molto non succede questa cosa così. Positivo, positivo, dai, se la riprenda Gianluca da Porto Torres. Il mal di gola. Carità. Ah, lui con un po' di miele con un po' di latte caldo, anche la notte prima di coricarsi, vedrai per un paio di volte, ma se non si è soggetto a prendere colpi d'aria, magari al lavoro, se no già dovrebbe passare subito. Ah, caldo è andato via, apposta ho fatto quel lavoro lì, vero, così è, già. Che io avevo il piede che stava dando le pizze. Scusate. Sono andato, hai? Scusate un attimino. Vediamo poi un attimino, non ho voglia di attaccare un salvatore, di salvare e così via. Penso che sia tutto normale. Mi confermi, Gianni? Capace, va bene. Ho cambiato più all'estonale, l'ho salvato, in effetti la calza non sta bene lavorando siccome questi PL sono PL tutti ben combinati e non si trovano più PL come si deve. Va bene, ok, riprovisa, fai girare. Questo PL, scusami Sandro, com'è questo PL? Quello con la plastica bianca del resto. Ma il PL, ma la maschio o la femmina ti serve? No, è più normale, capito? Più normale dove c'è un altro connettore piccolo per infilare il cavo alla RG58, capito? Niente, tutto lì. Io di solito salto anche all'interno, la calza la salto al piello, però adesso non l'ho salvato e quindi il dottore. Ma no, io non la salto mai. Io la faccio girare attorno e la stringo a vittanza. Domanda di fine. Io di solito lo salgo, capito, giusto per fare bene massa, diciamo, al PL. E vabbè, domani va bene. Ok. Come se mi ha fatto? Gianlu, ma cosa c'è di anfero? No, adesso ho toccato questi PL che hanno il petto e invece di abitare entro la casa e dopo c'entra una specie di cilindretto e blocca. E lui invece sono con l'interno o con le saldate, giustamente. Ma dove li ho beccati questi PL? Ah, ma dici una mia abuso, la Cravide ho attendendo i cassettini più che ciò del laboratorio, là, del garage, soprattutto le cassettine che ciò. E queste cose adesso che le avevo presi, ti dico di più, quando era messo in yoga, mi pare, ma fin da poco sono andato a pigliarli, lui, a chi non ho visto che non avevo, di la CBC, avevo una pigliata la taglia. No, quelli con la plastica bianca, lui. Guarda, potevo mandare ancora quelli che erano in macchinette, quelli che erano con la cosa marrone, dai, macchinette, quelli andavano ancora bene. Ma la bui, non hanno più fatto di chi? Quando da Sarrai c'è la plastica bianca, si sciuglie, si gli dà tutto canto. Sì, hai ragione, quelli con la cosa nera, hai capito sa? Sì, già ho capito. Questi PL che ho io sono quelli, ne ho qualcuno ricco al forza, quelli bianchi, ma questo diciamo sono fatti di te, come stava dicendo Gianni, quello marroncino. Logicamente poi c'è un altro connettore dove i fili diciamo entrano dentro o con la calza diciamo, però non fa bene aderenza, capito? Gioca un attimino. Vabbè, domani domani la raggiungo meglio, vediamo un attimino. Adesso insomma altrimenti sembra che va a ripetere. Capo Antonio, ripeto. Ma la verità, a me la volta che mi ha fatto così, che me ne è uscito anche il petto, è perché erano difettosi. Però salvando non mi è mai successo. Cosa? E a furia di saldare qui, sai cosa succede? Che girano su se stessi, capito? Perché se la plastica si restringe e gira. A me già mi è successo. Avanti, tornato. Già, mi sa che viene fare un salto giù a Cagliari a fare un pochino di rifornimento. Davvero mi torna. Perché qui, guarda, stiamo diventando una cosa come un anno di zero. La gira tocca... Io non ci devo andare. ...la pure. Io l'RG58, RG213, qualche attacco del microfono, quelle 8, quelle a 4, boh, non lo so, però prima a farci le prendevamo per questo. Io ad esempio mi sono messo in contatto avantieri con un'azienda che c'è in via Delmas e niente, adesso se tutto va bene in settimana mi dovrebbero portare giù l'antenna che non ho trovato da nessuna parte, pure lì sono riuscito a trovarla, però ci voglio andare di persona per vedere un pochino quello che c'è e quello che non c'è, perché mi hanno detto che è anche grandetto come negozio. Scusate, magari giù, vabbè, aspettate un attimino, ok, intanto faccio qualche controllino qua. Allora, giù a Cagliari, senz'altro, diciamo, sono più forniti, sono più all'avanguardia, perché qui, diciamo, all'avanguardia, dove trovi qualcosa, diciamo, è la GBC. Poi diciamo altri fornitori, almeno qui non ne conosco altri tutto quanto, ma gli unici più alla, diciamo, che sono difficili da trovarsi, logicamente non qui da noi, diciamo, sono i classici più alla in ceramica, si trovano, certo non qui da noi, tutto lì. Però io adesso voglio provare, tanto giù in stabilimento il numero di telefono di questa azienda che c'è giù a Cagliari e voglio provare a chiedere se il sabato che orario fanno, perché per quanto riguarda me è interessante riuscire a farci un salto e cioè di persona le cose le vedi, le tocchi con mano e insomma e qualcosina a casa bisogna sempre tenerla, però qualcosa di buono, perché per comprare il PL che ha la GPC o che ha quello sporcaccione qua di grassi e fai una saldata il PL è quello che è rovinato. Esatto. È proprio così, non fa neanche appoggio al dissodatore che subito diciamo si squaglia e purtroppo io l'unica volta che sono andato alla GBC gli ho chiesto ma dice carata molto la 27 come fornimenti siamo un po' scarsi, quindi questa una scusa va all'altra, diciamo così via, quindi l'unica sarebbe diciamo un fornitore magari prendono un po' magari a chi servono e poi magari così via, tutto lì. E sai, io sono del parere, diciamo, sì, ok, fammelo pagare magari qualche ora in più, però so che è del materiale buono, tutto lì, come l'antenna, come diciamo questa antenna che io adesso sto usando, era una vecchia antenna che io ho usato già nei vecchi tempi e quindi non lo so, forse perché l'ho avuta, mi ha dato molte prestazioni, non lo so, sarà sbagliato, dice chi la Mantova rende molto di più, e la mia magari questa è la mia fissazione, non lo so, comunque mi sono trovato abbastanza bene, questa è una Siri 8002. L'unico problema che c'ha, diciamo, è che per regolare le stazionari c'ha proprio l'ultimo stilo su in cima per regolare le stazionari, l'unico fastidio, tutto il resto e per dirti che non l'ho trovata qui, l'ordinata diciamo lì da Milano, pure lì. Quello lì è il brutto che abbiamo noi qui in Sardegna, però ritornando a quello che stai dicendo tu, è giusto anche dire, perché l'ho fatto anch'io quel ragionamento, di pagarlo anche un euro in più il PL, perché effettivamente se acquisti una cosa, la metti nella stazione, devi mettere un qualcosa di serio. Però il discorso che fanno qua questi tre negozietti che abbiamo noi è solo uno, che loro soldi non li vogliono spendere, non vogliono anticipare niente per mettersi in casa niente, mi hai capito? Quindi conviene questa gente cominciare a snobbarla un pochettino, iniziando dalla GPC, Fusaro e questi che sono qui a Bretagneta, e cominciare a peccare un pochino fuori, perché una volta che si vedono un pochettino alla fame questi signori, io sono convinto che qualcosa di buono la possano anche portare, se vogliono lavorare. Non lo so, adesso non so se questo sia un loro diciamo modo di lavorare loro o che cosa, perché secondo loro la 27 ha calato di brutto, quindi tenersi per dire 100 PL, tenersi 500 PL, venderne per dire 20, 30, 50, per loro magari affrontare una spesa del genere, diciamo per loro è troppo, quindi vanno diciamo sul prodotto che magari corre di più, dall'altro lasciarlo un po' a disparte. Però guarda, io ti posso dire, oggi con un ordine via internet, una telefonata in tre giorni ce l'hai a casa, io per lo meno sono di questo parere qua, poi. Sì, ma è giusto, non fa una piega oramai. Anch'io ho acquistato alcune cose su internet, guarda, non mi nego, ho acquistato, l'ultimo acquisto che ho fatto è stato l'alimentatore. E dopo tre giorni era qui, ma l'ho pagato la metà della metà di quello che ho visto a Sassari, parlo di sempre a pari prestazioni, io ne ho visto certi con meno ampere di questo, lo che ho preso io a 32 ampere, e niente, io su con quello che costano qui ne compro tre. Eh sì, è di quello che era dato, perché io stesso ho preso un alimentatore, un 38, la Switched, che tuttora lo sto usando il alimentatore, vedo che funziona bene, va bene, e l'ho pagato mi sembra 60 euro. 60 euro che ho preso mi sembra la spedizione, adesso non vorrei dire una bugia, comunque qui da noi mi sembra che costava sulle 90 a 100 euro, quindi vedi tu che insomma si vanno una zappa ai piedi loro stessi, tutto lì, comunque loro vogliono questo. Positivo, positivo, riprenditela il doppio rum. Ma diciamo che lo meglio la scoperta l'abbiamo fatta. Poi non fa manco a ordinarla, perché questi negozi qui ti dicono noi la ordiniamo, in settimana ce l'ha, passi la settimana dopo non è arrivata, passi dopo due settimane non è arrivata, insomma ti prendono per i fondelli per mesi e mesi. Poi non se ne parla della GBC, non... guarda, una volta ho ordinato una cosa, un linearetto. Metto che non ce l'aveva, che gli arrivava la prossima settimana, ma la prossima settimana niente, vado. Alla fine io gli ho detto scusi, ma mi ha detto che arrivava la settimana dopo, è già passato un mese e ancora non è arrivato, si è incazzato come un Buddha, ha detto che lui non poteva fare ordini, prima mi aveva detto che l'aveva già ordinato, poi ha detto l'attendente, mi ha detto che non poteva fare ordini se non c'aveva un tanto di merce che non gli conveniva, che qua che là, e gli ho detto guarda che io ti pago la spedizione, problemi non ce ne sono, tanto di cosa c'è di spedizione, sarà 10 euro un coso. No, io non ne posso ordinare, ma se tu a me mi hai detto che l'ordine l'avevi già fatto, cosa adesso ti tiri indietro che non puoi ordinarlo, che qua che là? Ma non ci avete serietà, ho detto, allora continuerò a ordinare da internet, perché qua non sapete lavorare. L'hai davanti a tutti, mi avevo fatto lo scandalo. Eia, hai visto quello che ha combinato a me quello di Bretagneta con l'antenna? Ma io te l'avevo già detto, Giuseppe, non ti fidare, qua non c'è serietà. Ti dicono, io sono, guarda, se uno mi dice, te la ordino, ti arriva fra due settimane vado e la trovo. Questa è la persona seria, ma se non ti dice te la ordino fra una settimana e qua, va una settimana, va la seconda settimana, va la terza settimana, la prima ti senti preso per i fondini. E infatti io ho tirato sul telefono, ho chiamato a Cagliari e ce l'hanno già disponibile l'antenna di magazzino, figurati. Ma perché quelli li tengono allora i prodotti già? Se qui temono a spendere i soldi, perché lì giù non penso che lì la 27 sia esplosa, perché io, tu lo sai che io in camion per un male ci giro, e anche quando sono giù a Cagliari non credere che lì di coso di baracchini ce ne siano più di tanti. Eppure lì il materiale lo tengono. Ma perché lì a Cagliari c'era stato un misticcio, c'è un casino grosso, me lo stava raccontando Luigi. Comunque lì a Cagliari diciamo che cioè, bene o male lì c'è proprio l'usanza del baracchino nei camion, molti se lo trovi anche qua, sì, ma a Cagliari la maggior parte delle autotrine e così partono da Cagliari, quindi magari anche per gli autotrini, per i camion, per anche i furgoni a Cagliari li mettono i baracchini, quindi comprano tutti. Lì bisogna ritagliarci un sabato mattina libero, farci un salto e niente, andare a curiosare, perché io rimango del parere che anche l'occhio vuole la sua parte, vedere un po' com'è questo negozio, com'è fatto, che cos'ha, i prezzi, bene o male l'antenna mi ha fatto un buon prezzo, 49 euro, e per me è un prezzo onestissimo. Sì, va bene. Fai 45 più le spese di spedizione, alla grande va bene. Oh, Gianni, ma adesso un valorissimo connettore, un casetto che sarà lungo, non so, sarà 40-50 centimetri, con l'ingresso, diciamo, 8 poli, con uscita 4 poli. Qui a Sassa mi chiesto, dice sì, te lo posso ordinare, dice non c'è problema, ho detto vabbè, diciamo un costo con te, e dice il costo c'è intorno alle 20-25 euro, e tu hai esagerato, e sì, più spedizione, tanto vabbè, detto, non ti faccio sapere, ma ordino, non ordinare niente, mi sono documentato su internet tutto quanto, un connettore, diciamo, identico, uguale tutto quanto, con spedizione viene 12 euro. Fate il buono. Ma come fa questa gente a lavorare? Anche la GBC, io non sono mai stato soddisfatto alla GBC. Vado quando mi manca qualche cosa proprio che non ce l'ho e non la trovo, ma se no, come soddisfazione, c'è quel ragazzo che va una faccia di gozzo, mamma mia. Ti fa certe battute con questa faccia ronfia e sono abbaidato di venire a tirare così un cagnotto a faccia. Mamma mia, no. Non ci sanno fare col cliente. Io volevo dire una cosa. Mi dico. Quella gente lì non gliene frega niente, perché i baracchini, le radio, tutte queste cose qua. Le mettono in secondo piano, le mettono, ce l'hanno la roba lì, quando tu la vuoi c'è quella lì, se non la vuoi rimane lì, non gliene frega niente, capito come sono fatti, sono grandissimi imbecilli anche, cioè, la cosa è quella che loro vendono altra roba e così si accontentano, hai capito, tutti in generale. Niente, tu c'hai ragione, ma prima la GBC come Finish aveva queste cose, era l'avanguardia davvero, un periodo c'aveva tutto, c'aveva lineari, baracchini, antenne di tutti i tipi, E poi c'era un viale Umberto che vendeva queste cose qua, quello lì era il più attrezzato che c'era a Sassari, c'aveva tutto, vendeva baracchini, antenne di tutti i tipi, solo queste cose qui, cavo, pelle, pezzi di apparato, tutte queste cose qua aveva. Il problema è quello, già adesso la GBC vende cose, vende di tutto, inverter, i frigoriferi per la macchina, i pezzi per computer, tutta questa roba qui, quindi quelle lì le mette in un secondo luogo, le mette, la prendono quella roba e la lasciano lì, se vieni tu e ti piazzi, per il prezzo che era con parenti, se non la lasci lì non gliene frega niente, capito? Perché hanno altra roba, ma siccome la GBC ce ne sono anche altre, Usaro, quello di Tredanieta, vengono tutte altre cose, quindi quelle cose lì loro le tengono sempre, se vieni sei dietro con parenti, cioè te lo compri al prezzo che è pure, se non lo lasci lì non gliene frega niente, lo fatti così. E noi ce ne freghiamo di loro, compriamo da internet e abbiamo la stessa la roba che vogliamo. Avanti Gianluca. Allora, però se non conviene, vedi, bisognerebbe, comunque stavo sempre ascoltando, anche se diciamo, non ascolto che sta parlando ancora un po' qua, ma subito che mi sta dicendo me lo freghiamo già. Tanto mi fa piacere la conversazione di più. No, stavo dicendo, se un giorno ci dovessimo, magari, visto che invece non si sa cosa fa, magari ordinare uno, per dire, 5 GM, queste cose qua, magari incontrarci, vedere un po' con un catalogo, oppure sentire un po' cosa costa una cosa, detto, cosa serve a questo? Questo, poi in più si mette un po' di roba, cosa, e si fa la spedizione, e arriva la roba per 3-4 persone. Ma noi qua se lo facciamo già, quando abbiamo bisogno di qualche cosa, io, Giuseppe, Antonio, Pierpaolo, eccetera, eccetera, che uno deve ordinare una cosa, lo ordina anche all'altro e poi ci si mette d'accordo, si paga meno di spedizione e tutto. Bisogna anche essere un po' furbi, no? È successo già altre volte, microfoni, questo, quell'altro, ci siamo sempre aiutati così, eh. Giusto, sì, conviene, conviene proprio, guarda. Allora, ma il bombolino c'è sempre? A pace Luca però che parcheggia, aspetta che chiamiamo Luca, chiamiamo e poi facciamo andare avanti a bombolino. Avanti Luca. E Luca si deve essere messo al PC. Bene, bene, bene, allora come le consigli che ti posso dire io, sono tu lo senti? Negativo, lo sentono. Ci manco con linea. No, c'è pure un metro troppo alto. Va bene, mi sente, ma io non sento a lui. Ma sicuramente non lo so perché. Se attacco io mi sento ancora più forte, cioè mi sente molto meglio. Adesso sono normale. Scusa, il miglioramento visto l'hai? E io non ci ho fatto caso. Ho fatto caso. Perché lo stavo guardando lo Smith. Ero qualche settimana che non può avere giudizio anche da fatto, tra virgolette, là. Ora ci possono fare ragione. Poi andare. Ci sono gamboni, lei, che si intende. Gigante Argento, no, sento le cose, no, sento un pelo. Sento un pelo o sento un laffero? Sento un pelo, sento un pelo, perché si è, diciamo così, ingrippato l'alimentatore, quello da 35, 30, mi sembra di 30 o 35, se non mi ricordo. Molto bello di fretta non è quello lì. Però la sto andando adesso con la batteria, capisci? Hai un pila di un museo di alimentatori. vai sul tecnocomunicazione, scegli il telefono, scegli il telefono e te lo ordini. Anche per telefono puoi fare l'ordine. Puoi fare l'ordine. Pagamento anche all'arrivo. Aspetta Gianni, che va, me lo dico. Aspetta, ne vedo, si prende. Lo devo prendere intanto, guarda, tanto non me l'hanno toccato piedi, non dico. Questa cosa non farà. Ma non ci si fa qua. Se non c'è sono di autoscontro, ma dove va di nuovo? Ah no, da no, dai. E riprendi, tecnocomunicazioni.it così proprio. Tango, ecco, Charlie, novembre, Oscar, Tecno. Gatta, tu sei attaccato, tecnocomunicazioni. Perfetto. Allora, aspetta un pochettino. No, ho cambiato... Ho cambiato un attimino mic, infatti chi sia questo, entra. Infatti fischia, ok, vediamo un attimino. Gianni, come modulazione? Come cosa mi dici? Forse il fatto che fischi un po' metallica. Sento un po' metallica. Non è male, però preferivo l'altro. Attenzione Gianluca. Sento anche io che è un po' metallica. Infatti devo abbassare. Vabbè dai. Gianlu, questo mic è quello grande, quella bestia grande là, però vedi? No, non coincide. Forse questo dovrà vedere, trovare la combinazione tra mitigare e mitigare. Mitigare è cosa? Come si chiama? Ma è detto che l'Ugani si è diretti? Ok, senti, si sente la vento là sotto, di sciogliere, non so di cosa è, ogni tanto lo metto, adesso l'ho attaccato, ogni tanto lo metto a scaldare, già, è un vecchio vasare, capito, degli uomini in nonno. Oppure una segretaria di quelle grosse. Allora, quel sito lì mi sembra che era il sito HST mi sembra. HSP mi sembra. Non mi ricordo bene. Prova un attimino. Senta, a chi ero curioso di dirci un po' quello che era quello che chiede di supporto. Andate sì, su tecnocomunicazioni, Gianluca. Sì, la sto accendendo adesso il computer qua. La devo aspettare, ecco. Sì, è sotto un attimino. E vai, lì c'è scritto tutto. Vai su strumenti, poi vai su alimentatori. E ti dà tutto. Tutti gli alimentatori che vuoi. Camagara. Rilasci tutto quanto Luca, vediamo un po' se c'è, se no riprendi tutto là. Avanti Giuseppe. Va. Volevo dire con la speranza che tecnocomunicazioni mandi che funzioni. Se non funziona io vi mando indietro. Va. Gianluca, ci sei? Mi senti? Sono gli superiori tu Gianni, problemi? Che ho avuto io probabilmente era una partita che era. Comunque dimmi quale ti stai prendendo. Sì, aspetta. Gian Paolo sta dando la presentazione. Allora, se volete comprare qualcosa, io almeno sono già un paio di anni che mi fornisco sempre a Manolo, su a Milano. E mi trovo abbastanza più che bene, sia come prezzi, poi una valuta, è la Magic Piccone, c'ha di tutto, da A alla Z, tutto quello che ti serve, sai in YouTube o per quanto una telefonata gli spieghi cosa ci sono, loro ti dicono sì, ok, ma non ce l'abbiamo. Come si chiama Magic www Magic? Magic piccole, piccole, Palermo, Imola, Como, poi l'H mi sembra con l'H piccole. Hotel si chiama. Ehi dai, non farò del genere. Capo piccole, piccole con CH. Io almeno sono già parecchio tempo che mi fornisco da loro. Grazie a Dio fino adesso ho preso questo alimentatore, il transattore della switching, che va, cioè, mi trovo abbastanza bene. Ho preso qualche mic da base, insomma, finora non posso dire niente. E ci sono comunicazioni di Milano? Sento Gianluca, se riesci a copiarmi. Sì, avanti. Prendi un pezzettino di carta e disegni questo www.francostore.it. Mi sembra davvero già visitato Franco Store, sì. Comunque se mi vado. Sì, Franco Store, eppure c'era anche questo. Ma però quando non è là, è il cipone. Ma è cipone. Quello che c'ha scritto che fanno le fiere. Questo è il Magic Piccone, sì, Milano. Sì, è quello lì. Papà, hai dovuto comunicazione. Giampa. Ciao Giampa. Ciao Giampa, buona visione. Fa la legge di buco. È forte. E vedi, quando l'ha rotto così, è bello. Non può dire niente, la ragione, la cosa. Non fai lo meglio. Va bene, adesso vediamo un poco, allora un attimo, senso libero, questa tradizione, posso cerca alimentatore, no? Per cercare su strumenti, cliccare strumenti, piace alimentatore. Beh, riprendo io un attimino per salutarvi, io chiudo qua, 10:30 e si va nanna, domani si trapacca, dai. Buon proseguimento a tutti, buon tutto, cordialità, ci risentiamo alla prossima. Giuseppe chiude. Ciao, ciao Giuseppe, buonanotte, buon tabacco per domani, ci sentiamo, va. Ma ciao, buonanotte Giuseppe. Ok. Ok, ciao Giuseppe, ben ascoltato. Buon tutto anche per la giornata di domani, al prossimo. Ciao Giuseppe, grazie alla compagnia. Sentiamo. Buonanotte, molto posto per Mario. Avanti, Giampa. No, lo ha avuto un problema di giornata. E no, ma l'ha minacciato, sta gira. Ma tu ce l'hai girato per dentro. Senta, Giampa, non mi dico che aspetta presto. Poi dopo quando la pigitrice già fa, ha giocato un po' di pigitrice. Mamma mia, guarda per la voce l'hanno fatto. Quasi che però mi ha visto che la ricicla, era bello l'ultimo di quella... Oh, questa la fine, cosa è uscito la roba? Guarda per lì, dalle metadone che fa sangue. Cioè, guarda che c'è qualcosa che non fa, Il segnale è... Non sono picchi negativi, anzi si stava scaricando la batteria. Il movimento mentre parlavo è girato un po' meglio, sa? Ho capito, dai. Ho capito, va bene. Riprendo io. Vabbè, un attimino sto parlando. Scusa, mi rivedo, quando lo vedi che può andare lì. Quando carica batterie o sa, automatico, no? Con i mezzi delle batterie, sa, meglio, quindi scarica, metta carica e carica tutto, no? Sta prendendo con le cose, dopo con carità, perché è grande, come dico su lì, fatto un baracchino, però più sottile, è lungo quanto un baracchino, però un 3-4 cm più corto, no? se può farla caricare. Ho capito. E va bene, ma non è sì, è un qualcosa di provvisorio, dai, tutto lì. Però non è mai come un alimentatore, dai, ci vuole un alimentatore. Un alimentatore come si deve ci vuole. Io adesso mi devo decidere, un altro un po' più grandotto lo devo prendere. Questo diciamo in pronta farcene più la voglia, ce n'è, però me l'ho portato anche qualcosa in più e quindi per non farlo mattanare, per non farlo soffrire, meglio averlo sempre di scorta qualcuno che è meglio. Non è vero, no, è una cosa così provvisoria, è bella. Poi facciamo mai un tanto per una batteria grossa lo so, cioè la catornia e sta fermo un po' poco. Sì, vabbè, quello sì, quello sì, va bene, va bene. Allora aspetta un attimino che cambia un attimino, aspetta un po'. Io della batteria sai cosa usavo io? Il booster, quello per mettere in moto la macchina quando la batteria è scarica. Usavo quello lì e era una bomba. Non si caricava mai che aveva sempre attaccato lo caricabatteria. E andava alla grande. Scusate un attimo. Vengo però già quello lì, che vengono tutti. Con la batteria al gelo. È più un disastro, no? Ti pigli in mano, devi prendere una piuma, ti fanno la padrina, lì con pressione, è un po' che mi piace. Questo cosa solamente visto, ma il distruttore è questo, avviatore. Certo, sta una bomba, grazie. Non ho più cavalleria, ci vuole cavalleria. E già serve sempre, grazie. Avanti Antu, che volevo entrare in treno, non lo sentivate, avanti Antu. E chiappa. Oh Giaione, mi sei comodo qua qui. Sono quattro ore bianchi. Non mi ha dato questo cazzo due ore di bianchi. E poi ho molta stanchezza perché oggi sono già tre giorni che lavoro, sto lavorando bene. E quindi un ritmo molto, molto impegnativo perché ci sono state molte richieste di a piedi, che sono un pezzante. Ok dai, anche non ne vuoi fare nessuno, c'è sempre questo discorso. Dai, io ti saluto, dai, buonanotte a tutti e buonanotte a tutta la ruota. Tanto buonanotte a te, non so da come per domani. Avanti Sandro, poi fai la... Fatti sentire domani. Sì, ya. Ok, vediamo un pochettino, ho cambiato un attimino cavallino, aspetta un po'. Ok. Ok, sta andando. Il cavallino sta pompando. Ok, ciao, buonanotte. E adesso mi sono ricordato il nome attivo, vai, comunque, alle prossime. Ok, Gianni, cosa mi dici? Che si stanno andando bene, Il nome attivo è Antonio Bombo. Ma dai, ciao a tutti, anche l'altro amico che non sento. Ciao, ciao. Tanto sentiamo domani. Avanti. Oh, buongiorno. Ci sentiamo alle prossime. Buonanotte, buon giorno per domani. Avanti Giampaolo. Giampaolo si è girato all'altro fianco. Ciao Anto. Alla prossima. Ok. Ok, dai. Facciamo scaldare anche questo qui. Il piccolino. Bravo. L'impotolazione com'è? Oh, già. Buona. Se non te l'avrei detto. Va bene, bella forza. Ok. Invece come segnale? che già sono belli positivi, già me li vero. Sono come segnale, c'è 9.15, 9.10, 15. Ok, già sta andando. Già sta andando, ok, ogni tanto bisogna farlo scaldare, ok. Gianluca, ci sei entrato su questo sito? Se non mi dà sotto della tecnocomunicazione, vado lì sulle cose, quando faccio alimentazione, non c'è nessuno, non ci sono prodotti con il comune per la selezione. Come non ci sono prodotti e cose? Appena sulla prima, la pagina iniziale, sulla pagina iniziale dove dice strumenti e così via. Hai file, dici posto con polibere, la cosa è strumentazione. Poi su strumentazione, dopo c'è l'alimentazione, parla le statue, quindi è venuta. E ora ti dice di più, adesso guardo lo posto. Cosa c'è anche usato? K. Prova a vedere cosa c'è di usato. Allora, di usato, quando ritira... alle fiere ritira l'usato e dal nuovo, poi lo testano prima di venderlo, a me ne 440, 300 euro, vado a vedere che bomba che è. Ma ormai diciamo che il 140 è già sorvolato, già. Ma va sempre bene. E a 250 è qui, sai, dove lo stato. Una bella radiolina, Boh, non lo so. Non lo so, dimmi quello che vuoi, io l'ho visto così. Boh, avrà delle sue prestazioni, avrà... sarà bello, sarà quello che vuoi, però poi esteticamente lo vedo nudo. Sì, il 4.40, c'è anche la collatura automatico in tempo. Una piccolina, ecco, come la vogliamo chiamare. Ho capito. Poi riguardo diciamo le prestazioni, poi bisogna vedere un po', so almeno da molti diciamo che è un buon apparato, in modulazione diciamo va anche bene, poi sulla modulazione logicamente bisogna vedere sempre, azzeccare il mic sul giusto, tutto lì. Vedi, il mic penso che sia quello là che abbiamo visto stasera. La voce che conta, la voce delle cose vocali, più che il mic. Ehi, diciamo il timbro della voce. Tu adesso vedi un po', io sto usando quello ZG, l'MD19, diciamo, è un mic semplicissimo, a parte i suoi accorgimenti, però diciamo... va bene. Diciamo che si adegua la tua voce, perché sì, è una voce più tranquilla, meno cavernosa, invece per l'MC60 si adegua a chi ha la voce con muti bassi, cavernosa, ecco, da uomo. Come si deve, si mette sempre a rompere le scatole. Tu che parlate, io vi sento, e avanti c'è lui. Gianni, mi senti? Io ti sento. Avessi avuto un po' di gusti anche, è anche antiquato come gusto. Ognuno si difende come può, dai. Sai cosa diceva mio padre? Ognuno toglie fuori ciò che ha dentro. Vabbè, anche quello è vero. In mancanza d'altro diciamo che uno cerca di togliere di togliere fuori il proprio artigli. Attacca, a vedere se ti ascolto. Ascolto. Io passo. Io. Allora, la sua di più si doveva mancare perché tanto ripeto, lo so, no? Si è stato un po' di freddo qua, tutto non è possibile. Sono la vetrata piena di pentita, di musicai. Sto buscando sopra, ma non so se io, se guardi più. Io se mi giudi questo può, sempre a fitto la nuda. E si sta, si è vero, ho la mano di cose. Non so fare, mi la mano di cose. Si sa, dai, siamo 10 per la pongo la roba di scavetto. Beh, certo. Ma in casa io il termosifone non lo sopporto. Tutti i nodi, ogni nodo ci aveva Una frase. Mi sono perso, cosa ti posso dire? Mi trovate fra 10 chilometri, ogni nodo significava una cosa. E poi ci facevamo fare il passaggio ponte, praticamente si doveva arrampicare questa fune con le mani passare il lago per non bagnarti, no? O ruscigli o cosa, mettevi la fune da una parte all'altra del rigagnolo d'acqua, cosa poteva essere, un ruscello, non so, uno stagno. E passavi, fai il passaggio a corda facile. Tutti e due, e voi devi non andare a scalare. sono disceso in corda doppia, tutte queste cose qua. E lei è più brava di lui. Mi ha detto che un po' si è frenato perché ho visto cadere il dito e ammazzarsi. Proprio cadere vicino a lui, arrampicando vicino a lui e perdere l'equilibrio e cadere e sfracellarsi della roccia, l'ha proprio visto e l'ha detto con una faccia che si leggeva il dolore che aveva provato e il pensiero. Che io rischio, sono anche un po' pauroso, soffro di vertigini qui. Stanno manovrando. Aita, 1-3, 1-3, 1-3. E perché? Perché? Capito. La situazione. Avevo abbassato il flaco, No, ma non mi quadra la situazione, poi trasporti. Così quando ti arrivo, guarda, ti arrivo. Alla metà, a 4. A 4? A 4 watt. A 4 Santiago. Allora sei solo a 9, a posto. E così quando ti arrivo, quando ti arrivo. Ma buona, ti saluto, buonanotte.